Ciao a tutti, sono Luca di Pandemia, oggi è sabato 6 novembre, sono a Milano nello studio di registrazione di Kix per il podcasting e sono in compagnia di Francesco, Ludovico e Marco. Abbiamo in linea su Skype Alessandro di Punto Informatico che presto intervisteremo. E passo la parola a Marco per un'introduzione all'intervista. Beh, innanzitutto ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. E partirei con una prima domanda chiedendoti, come abbiamo fatto nelle altre trasmissioni, di raccontarci qualcosa di Punto Informatico e di quello che tu fai all'interno di Punto Informatico. Informatico, di come è nata la collaborazione, un po' di curiosità. Sì, Punto Informatico nasce da prima sulle BBS e poi nel 1995 sbarca sul web, dove poi si è trasformato in un quotidiano di comunicazione, tecnologie di comunicazione, informatica, eccetera. Diventando quasi da subito una testata giornalistica, quindi registrata presso il Tribunale di Roma. Io in Punto Informatico ho fatto il mio ingresso pochi anni dopo il suo debutto diciamo ora ricopro, sono nella main board editoriale e sono uno dei soci della De Andrés Editore, che appunto è proprietaria di Punto Informatico, e mi occupo più che altro di notizie tecnologiche, quindi software, hardware, nuove tecnologie, tendenze, cose di questo genere. Ciao, senti, sono Francesco, volevo riprendere una cosa che mi ha sempre, da anni che aspetto di poter sapere il dietro le quinte di una community come Punto Informatico, la vita dei commenti di quello che scrivono gli ascoltatori, specialmente dal vostro punto di vista, come funziona ad esempio la moderazione, chi è deputato a farla, se una persona o tutti, quali sono le policy e se veramente quanto lavoro, se veramente è un lavoro più grande ancora del fare le notizie. Sì, guarda, della moderazione ci occupiamo a turno un po' tutti quelli della redazione, quindi 4-5 persone. È una faticaccia, sicuramente una faticaccia, perché conta che noi in media vengono scritti su Punto Informatico dai 1000 a 2000 messaggi al giorno. E per ognuno di questi messaggi, va per forza di cose letto, per vedere appunto se contiene parolacce o comunque offese o comunque qualsiasi cosa che vada contro la policy dei forum. E questo purtroppo ci porta via un sacco di tempo, ma è anche quello che negli ultimi anni ci ha permesso di dar vita a una grande comunità di utenti che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come ogni cosa. I difetti sono dati dai troll, dalla gente che si diverte a spammare il forum con messaggi che non c'entrano nulla con l'argomento di cui si tratta, oppure che contengono esclusivamente offese e cose di questo genere. Senti, vorrei chiederti, rispetto magari a Slashdot, che ha una comunità di troll così forte da avere addirittura una pagina su Wikipedia per i troll di Slashdot, con tutti i comportamenti tipici di quel sito, come funziona un po' da voi? Specialmente come fate a combatterli, dato che non avendo registrazione sui forum è praticamente impossibile bloccare gli account, bloccarli, insomma. Spiegami tu, se puoi magari prima fare un brevissimo accenno a cos'è un troll per chi dovesse ascoltare e non è magari appassionato di queste cose, ti ringrazio. Sì, un troll è una persona che si diverte appunto a scrivere messaggi non pertinenti, ad esempio al forum di una notizia, o che contengono quasi esclusivamente offese. Oppure messaggi scritti tutti in maiuscolo che per chi conosce la netiquette equivalgono su internet a urlare, a mettersi a urlare, o cose appunto che vanno contro il buon ordinamento, il buon proseguimento dei forum, delle chiacchiere, diciamo. Diciamo esistono, possiamo dire, due tipologie di troll. Una piuttosto positiva, che magari scrive messaggi che è piacevole leggere, che comunque contribuiscono in qualche modo a identificare una certa comunità. Per esempio, ti posso dire che noi abbiamo avuto dei troll che hanno contribuito a rendere famoso Punto Informatico, proprio perché hanno coniato dei nuovi termini, dei nuovi vocaboli. Delle cose che hanno fatto poi alla fine tendenza e sono state riprese magari su newsgroup, in altri siti, eccetera. Poi purtroppo invece c'è la parte più negativa di questa cosa, i troll che purtroppo invece si limitano a offendere gli altri, a scrivere parolacce, a non rispettare assolutamente e quella che è la regolamentazione dei forum. Tu prima dicevi che noi non abbiamo la registrazione, e infatti questo è il più grande problema, appunto, di riuscire a gestire un forum. Ed è quello che ci ha portato proprio di recente a decidere di chiudere il forum a tema libero, dove si poteva parlare di qualsiasi cosa, quindi anche temi al di fuori dell'informatica, e a convogliare questo canale sul forum off topic, dove però credo, adesso dobbiamo ancora decidere, ma credo che ormai la cosa sia definitiva, ci si potrà iscrivere, si potrà parlare soltanto dietro appunto una piccola registrazione, cioè lasciare il proprio email. Senti, a proposito del folklore di Punto Informatico, di queste cose poi riprese su Usenet o sui media create all'interno della comunità, ma puoi tirarne fuori qualcuna o sono Ma guarda, riservate alla... uno dei troll più famosi che abbiamo avuto è un certo Alien, che poi tra l'altro ha fondato anche una sua comunità, con cui abbiamo avuto anche un rapporto conflittuale, però ci riteniamo poi alla fine degli amici, che ha coniato forse il dizionario più ampio di termini spiritosi, soprattutto contro Microsoft e contro Bill Gates. Per esempio, lui definisce quelli di Microsoft e quelli che appoggiano Microsoft dragasaccocce, oppure pretoriani, insomma, ha coniato veramente un'infinità di termini divertentissimi, che hanno veramente denotato un periodo storico veramente dei forum di Punto Informatico. Ma ce ne sono tantissimi, ma guarda, veramente poi mi sfuggono. Ma anche soltanto i nick, cioè ci sono dei nick veramente incredibili, divertentissimi, che anche quelli sono ormai nick storici, chiamiamoli pure dei pilastri della comunità di Punto Informatico. Ciao Alessandro, sono Ludovico. Sempre restando, poi magari passiamo a un altro argomento, ai troll, ai commenti, moderazione, non avete mai pensato di adottare un sistema tipo quello di Slashdot che assegna dei punti ai messaggi degli utenti e quindi agli utenti, e questi punti poi vengono usati dagli utenti per moderare gli altri messaggi? E se ci avete pensato e non l'avete realizzato per un problema tecnico oppure... Peraltro. Ma guarda, noi abbiamo introdotto diversi mesi fa la votazione dei messaggi, quindi un utente si è registrato, però, quindi la registrazione, appunto, come dicevo prima, consiste semplicemente nel lasciare i propri email, niente di più, e nell'avere un nick fisso. Ecco, appunto, un utente registrato può votare un messaggio, quindi da una scala che parte, mi pare, da meno 2 e va fino a 3, 4, 5, giù di lì. E può anche dire se il commento è stato interessante oppure inutile, utile, eccetera. Però dobbiamo dire che in questi mesi la cosa non ha riscontrato molto successo. Praticamente si può dire che gli utenti che votano i messaggi sono una frazione del totale. Quindi poi alla fine tutti i messaggi hanno più o meno la stessa votazione, la stessa valutazione. E non c'è purtroppo questo sistema, quindi è inefficace per ordinare, no, i thread, i post in base, per esempio, a se sono ritenuti più o meno interessanti o no, proprio perché la gente purtroppo, chiamiamola forse pigra, forse anche una pigrizia, non vota, non li vota, non è molto a favore di questa cosa. E quindi io penso che anche introdurre una moderazione del tipo che dicevi tu non funzionerebbe, almeno su punto informatico. O forse su Slashdot funziona bene perché c'è il meccanismo del karma, per cui se tu posti buoni messaggi ti si alza il cosiddetto karma e quindi puoi fare il figo dicendo che sei uno di quelli che contribuiscono a rendere Slashdot interessante. Magari voi non avete un meccanismo di questo tipo, forse gli italiani sono solo più pigri individualisti e non hanno molta voglia di Sì, utilizzare questi strumenti. forse sì, forse è anche complesso, probabilmente dal lato tecnico anche implementare una cosa del genere. Boh, chissà, forse un giorno potremmo anche provarci a introdurre qualcosa di questo tipo. Però una regola che io ho imparato fin da subito su internet è che un click in più a volte può determinare se una cosa funziona o non funziona. E quello che io credo che poi abbia portato anche da parte di molti a considerare punto informatico il vero quotidiano, perché noi diamo subito la notizia in prima pagina, basta un clic e hai la notizia. Invece, secondo me, la cosa sbagliatissima sono quei siti in cui per arrivare alle notizie, per arrivare ai veri contenuti, devi fare 1.000 gincane, 1.000 giravolte, 1.000 click, tra servizi, banner, download, eccetera, eccetera, che secondo me è la cosa più sbagliata di questo mondo. E quindi anche questa cosa applicandola ai forum, secondo me, se tu chiedi da parte degli utenti di fare troppi click, di districarti in mezzo a votazioni, a cose strane, secondo me te ne porti dietro veramente pochissimi, perché la maggior parte alla maggior parte basta un clic, vuole arrivare la notizia e basta, magari leggere direttamente un commento e poco altro, insomma. Sì, d'accordissimo con te sulla semplicità del processo dell'interfaccia, però adesso poi veramente passiamo ad altro argomento, però io ho avuto un periodo qualche anno fa in cui ero un accanito giocatore di Ultima Online, che è un gioco di ruolo in linea, e dove la cosa più importante è la comunità, è quello che ti tiene dentro nel gioco e che ti fa passare veramente ore e ore ogni giorno a giocare e quindi a spendere anche soldi, Certo. eccetera, eccetera. È uno, la comunità e quindi le persone con cui interagisci, e due, un meccanismo di premi, per cui quando tu fai delle cose hai un premio, il tuo status nella comunità si alza e quindi penso che forse un clic o due clic in più, se si riflettono in un innalzamento di status nella comunità, come appunto fa Slashdot, possono funzionare. Però, vabbè, questa è la mia considerazione. Sì, probabilmente dipende anche dall'ambito, capito? Noi appunto siamo associati con l'immagine del quotidiano, che invece di sfogliare le pagine, si fa un clic e si accede alla notizia. Ci siamo fatti appunto questa fama di immediatezza e probabilmente appunto altre cose più complesse funzionerebbero poco. Comunque, sarebbe anche interessante provare, però non sono io che gestisco la parte tecnica, quindi questa cosa magari sarà da proporre a Andrea, che si occupa invece proprio della programmazione, del database e tutto quanto. E poi magari ti chiediamo anche come è fatto, però tu hai parlato di quotidiano, io ho una domanda in testa che mi tenevo lì da farti quando avessimo chiuso questo argomento, te la faccio adesso, Sì. e visto che voi siete una testata registrata, però di un tipo di editoria nuovo come quello dell'editoria internet, avete rapporti con l'editoria istituzionale, con la carta stampata, che tipo di rapporti sono? Se ci racconti un po' qualcosa. No, diciamo che praticamente non abbiamo rapporti. Abbiamo, se si possono chiamare rapporti, dei rapporti con la versione online di Repubblica, perché ci sono alcuni giornalisti che ogni tanto ci citano, ecco, non si limitano magari come fanno tanti altri a riprendere le nostre notizie. Senza citare la fonte, e quelli ogni tanto insomma ci citano perché chiamiamole amici, ecco, però poi non abbiamo altro tipo di rapporti. Ma basti pensare che fra noi, quindi fra i fondatori di Punto Informatico, non c'è un giornalista, cioè nessuno di noi ha la tessera, e questo credo sia la cosa più importante poi alla fine di Punto Informatico. Nessuno di noi. Lo Stato lo riconoscerebbe come un giornalista, non siamo giornalisti ufficiali. E questa è anche la nostra, secondo me, la nostra rivoluzione, cioè quello che vogliamo portare alla conoscenza di tutti, che non serve essere giornalisti per fare dell'informazione seria almeno su internet, insomma. Penso che noi siamo la dimostrazione vivente, insomma, di questa cosa. Senti, a proposito proprio di quello di cui stavi parlando, quindi di un sito di informazione che non è gestito e in cui non scrivono giornalisti di professione, ma persone che arrivano da altri campi e che non sono associati all'ordine dei giornalisti. Sì. Cosa ne pensi della nuova tendenza moda che c'è negli Stati Uniti? Dei quelli che vengono chiamati blogs for business, quindi testate, ad esempio Engadget piuttosto che Gizmodo, piuttosto che Flashbot, ce ne sono diversi esempi, che partono con uno stile molto vicino a quello del blog, quindi interfacce grafiche molto semplici, commenti e quindi una parte di comunità. Cosa ne pensi? Hai seguito il fenomeno oppure no? Sì, ho seguito il fenomeno, però sinceramente magari io mi farò dei nemici, specialmente tra di voi, però io non considero i blog una rivoluzione solo per certi versi, perché secondo me i blog rientrano molto in quella famosa legge che dice che ognuno di noi avrà fama per 15 minuti, no, della sua vita. Secondo me i blog sono importantissimi per diffondere la cosiddetta informazione alternativa, quindi magari anche alternativa a quella che già noi facciamo e che consideriamo alternativa a sua volta. Però secondo me ne sono nati tantissimi che vedo poco utili, assolutamente poco utili. Prima di tutto perché è difficilissimo seguirli tutti. E quindi poi alla fine, secondo me, almeno l'80% dei blog va a finire in un mare che non ha utilità e che non ha un fine, e che spesso contengono notizie riprese da più fonti, che a loro volta non riprese da altri, che a loro volta non riprese da altri, e che alla fine perdono proprio tutto il loro contenuto. Io considero utilissimi i blog come quelli che sono nati durante la guerra in Iraq, che veramente danno notizie per certi versi originali, commenti che altrimenti non si potrebbero leggere altrove. Ma questa tendenza di voler fare del blog a tutti i costi la rivoluzione, la nuova rivoluzione dell'informazione a 360 gradi, lo ritengo un po' esagerato, sinceramente. Quindi anche queste le iniziative di cui parlavi tu. Ma sì, lo stile blog è uno stile che va bene in certi ambiti, secondo me, in certi ambiti del giornalismo, però in altri, secondo me, poi alla fine non ha tutto questo senso, insomma. Non è che basta avere lo stile blog poi per fare un sito di successo, informazioni di successo o comunque per essere di tendenza. E io sono di nuovo Ludovico, sì, è vero quello che dici che non basta adottare lo stile, però non sono completamente d'accordo con te. Se prendiamo il tipo di notizie che date voi, per esempio, e il tipo di notizie che danno blog fatti da persone che sanno quello che fanno, e che si occupano di argomenti ben specifici. Ti faccio un esempio pratico: io programmo in Python molto per diletto, un po' per lavoro, anche se in realtà mi occuperei di altre cose. E i blog di quelli che sviluppano in Python sono per me utilissimi e super interessanti, perché trovi delle notizie molto mirate, molto specifiche, notizie, commenti, ragionamenti su quello che succede o non succede all'interno di una comunità, che è difficile trovare su siti più generalisti e più istituzionali come ad esempio il vostro. Quindi io penso che i blog hanno una funzione molto, molto utile quando si occupano di un argomento specifico, e ovviamente sono fatti da chi se ne intende. Poi un'altra cosa che vedo molto importante dei blog è quell'effetto dinamo, che ogni tanto fa sì che una notizia viene presa, ripresa, commentata e sale all'attenzione dei media istituzionali o dei siti più generalisti, cosa che altrimenti non succederebbe. Poi è verissimo anche quello che hai detto tu, che poi i blog proliferano, che tutti scrivono di tutto, e soprattutto i blog, come ci sono anche esempi piuttosto noti in Italia, che diventano delle specie di raccoglitori per gli ego di quelli che scrivono, sì, sono veramente poco interessanti, molto noiosi, specie poi quando aggiungono vari calendarietti di veline o cose così. Sì, sono d'accordissimo con te. Io credo che i blog settoriali, soprattutto quelli settoriali, siano utilissimi. E quelli generalisti siano utili se chi li scrive, come dicevi tu, è veramente ferrato nella sua materia, sa veramente cosa sta scrivendo, perché altrimenti diventano semplicemente dei riflettori di notizie che, a mio avviso, hanno poca utilità, insomma. Senti, sono Francesco, vorrei chiederti se puoi citare un paio, due, tre titoli di quelli che leggi tu, che stimi tu, o più in generale episodi in cui voi avete preso qualcosa dai weblog, ossia notizie che magari non erano, erano un po' più di nicchia, l'avete portate fuori, come diceva prima Ludovico. Ma guarda, sicuramente leggo il blog di Mantellini, perché poi, a parte che è un nostro amico di vecchia data, è anche il nostro opinionista, chiamiamolo così, più prestigioso. Poi leggo diversi altri blog di argomenti correlati, anche retro gaming e roba del genere. Di cui adesso non so neppure il titolo, ho gli indirizzi nei preferiti del mio browser e ogni tanto ci clicco. Purtroppo il tempo è quello che è, quindi non sono un frequentatore attivissimo di questo mondo, anche se me ne dispiace, però posso dire che c'è stato più volte utile per riprendere notizie, per soprattutto anche ascoltare altri commenti oltre a quelli che magari già si trovano sui nostri forum. E poi a me piacciono molto quei blog di personaggi molto famosi di internet, che possono effettivamente commentare in modo autorevole certe notizie e certe tecnologie. E a proposito di questo, volevo chiederti se non si potrebbe considerare, ad esempio, la colonna di Bertola, che mi sembra che abbiate su Punto Informatico, in questo senso, ossia come un blog che viene preso da un sito come vostro e può diventare quasi la colonna dell'opinionista di un quotidiano. E se magari avete pensato di ampliare questa linea o qualcosa su questo. Sì, noi è già diverso tempo che pubblichiamo i commenti o articoli provenienti da vari blog. In genere lo facciamo mettendo nel titolo il nome del blog prima e poi una slash per separarlo dal titolo vero e proprio dell'articolo. E diciamo che in questi anni hanno scritto un bel po' di gente, un bel po' di persone, anche insomma, appartenenti a blog famosi. Io credo che continueremo su questa strada, ampliarla non lo so, perché poi la linea editoriale non la decido soltanto io. Però è sicuramente un binomio particolarmente azzeccato, soprattutto considerando che per certi versi anche Punto Informatico può essere considerato un biloggone, un blog magari un po' cresciuto, magari molto più formale. perché siamo partiti anche noi scrivendo notizie magari per nerd, per altri nerd, per altri geek. Ora chiaramente col pubblico che abbiamo dovuto un attimino formalizzare le cose, adottare uno stile un pochino più da quotidiano cartaceo, però insomma io penso che per molti versi anche noi rimaniamo quell'immediatezza e quella genuinità che contraddistinguono i blog. Alessandro, mi dici come si svolge una giornata tipo nella redazione di Punto Informatico, come viene creato il nuovo numero? Allora, intanto la redazione di Punto Informatico, non vorrei scioccare qualcuno, non esiste. Non esiste perché è virtuale. Certo, abbiamo un indirizzo di posta cartacea dove ci arrivano magari pacchi, plichi, eccetera. Però diciamo che ognuno lavora dalla propria casa, dal proprio ufficio personale, chiamiamolo così, e utilizziamo moltissimo l'instant messaging, quindi la messaggistica istantanea. Tra l'altro adesso, visto che ce l'avete messo in mente voi, sicuramente utilizzeremo sempre di più anche Skype, che lo trovo veramente un mezzo fantastico. Fino ad oggi non avevamo adottato molto la tecnologia vocale via internet perché la qualità era quella che era. Ritardi mostruosi, eccetera. Invece veramente Skype vedo che funziona davvero, quindi lo useremo senz'altro. Comunque via ICQ o quello che è ICQ, insomma come lo si vuole chiamare, ci sincronizziamo, quindi stabiliamo le notizie da scrivere quel giorno, ci scambiamo pareri, ci scambiamo commenti. E poi arriviamo insomma alla chiusura del numero serale in cui ognuno insomma ha la sua parte. Tra l'altro, ti consiglio proprio di provare per fare una riunione di redazione virtuale la conference call di Skype, che permette di mettere in comunicazione fino a 5 utenti, quindi per voi credo potrebbe essere un ottimo strumento di lavoro. E tra l'altro, una cosa nuova che ho letto da affezionato di Punto Informatico è il vostro sbarco sulla carta stampata. Mi puoi spiegare qual è la motivazione che vi ha spinto a questo esperimento e quali sono le prossime tappe? Eh sì, è un esperimento curioso perché siamo partiti dall'elettronico e sbarchiamo sul cartaceo che magari noi stessi abbiamo più volte definito un dinosauro o qualcosa in estinzione. Però diciamo che vorremmo farlo con un approccio molto diverso, insomma, dal tradizionale, perché Punto Informatico Solido si chiamerà così il mensile cartaceo che stiamo per lanciare, intanto non conterrà notizie e articoli inediti, quindi che non saranno usciti su Punto Informatico in versione elettronica. E poi comunque vorremmo cercare di dargli un'impronta molto di attualità, molto più articoli scorrevoli sulle tendenze, quindi anche analisi di mercato, nuove tecnologie e cose di questo genere, quindi non sarà assolutamente una rivista informatica vera e propria come magari si può avere in mente un PC professionale o cose di questo genere. Sarà una cosa, insomma, tutto ciò che non riusciamo a mettere dentro appunto informatico elettronico lo metteremo dentro PI Solido. Da commenti a articoli a notizie approfondite. Dovrebbe uscire a dicembre ormai, perché il nostro piano era quello di farlo uscire a novembre, però non ce la faremo perché stiamo ancora tentando di raccogliere quella pubblicità che poi ci permetterà di almeno andare in pareggio, insomma, sulle spese di spedizione. E poi andando in là con il tempo speriamo, insomma, anche di guadagnarci qualcosina. Comunque sarà un mensile che vivrà esclusivamente di pubblicità, quindi non avrà assolutamente né ora né in futuro alcun costo di acquisto, diciamo, di abbonamento. E quante persone, si sono abbonate al primo numero e come si fa ad abbonarsi? Dunque, siamo arrivati a quasi 30.000 iscritti fino adesso, però il primo numero per motivi tecnici lo manderemo soltanto ai primi 25.000, credo, dai 20 ai 25.000. E per abbonarsi niente, basta visitare il sito di Punto Informatico o punto-informatico.it e si, proprio in home page sulla sinistra c'è il link a cui accedere alla da cui accedere alla registrazione. E infatti è un fenomeno curioso quello di Punto Informatico, di sbarcare di passare dai bit al cartaceo. Ci sono anche altri esempi che mi vengono in mente, tipo Dagospia, che è partito dal web e poi ha stipulato delle collaborazioni, credo con Panorama Economy e altri giornali per aumentare le entrate, ovviamente. Punto Informatico online invece, che modello di business ha? Si basa interamente sulla pubblicità o ha anche altre fonti di reddito? Per il momento si basa quasi esclusivamente sulla pubblicità. In passato abbiamo tentato di prendere anche altre strade. Intanto il nostro primo obiettivo era quello di riuscire a vendere contenuti, quindi contenuti personalizzati per altri portali. Il problema è che soprattutto con la crisi che c'è stata negli anni scorsi, i portali in realtà non sono mai decollati, sono quasi tutti in rosso. Basti vedere, insomma, che fine hanno fatto anche tanti siti di informazione che erano spalleggiati da grossi editori. Quindi è stata un'ambizione che purtroppo non è approdata da nessuna parte, e credo che anche nei prossimi anni sarà difficile comunque perseguire questo business. Abbiamo poi avuto per un certo periodo di tempo la vendita di una flat internet anche a DSL, però tutte veramente bazzecole che non portavano quasi una lira, quindi abbiamo abbandonato anche quelle. La cosa positiva è che in questi ultimi 2 anni, anche in Italia, dopo insomma che il fenomeno si era invertito anche negli Stati Uniti, la pubblicità online è veramente cresciuta parecchio, e quindi insomma stiamo finalmente raccogliendo i primi risultati di questa cosa. E dal tuo punto di vista, dal punto di vista di Punto Informatico, come è evoluta la rete in Italia? La diffusione della banda larga ha cambiato le abitudini del lettore, o comunque anche il vostro approccio all'offerta dei contenuti, o comunque Punto Informatico si rivolge ad un lettore evoluto che non è cambiato nel tempo? Ma forse inizialmente ci rivolgevamo a un lettore evoluto, ora insomma cerchiamo di comprenderli un po' tutti, insomma tutti quelli perlomeno che si interessano a questo mondo. Il fatto che si sia diffusa la banda larga per noi ha sicuramente determinato intanto un aumento di impression, perché se prima per caricare una notizia ci voleva magari 30 secondi, ora se ne vogliono 5, quindi sicuramente i lettori sono più portati a leggere più notizie, a visitare i forum, a rispondere, eccetera. Quindi questo è stato molto positivo. Dal lato del look and feel del sito, poi alla fine invece è sempre il solito. Abbiamo fino ad oggi preferito mantenere uno stile molto sobrio, molto leggero, senza grandi immagini, a parte i banner, che purtroppo quelli ci servono per vivere, non possiamo eliminarli, però insomma abbiamo ancora oggi, nonostante la larga diffusione di ADSL, cerchiamo di assolutamente privilegiare un sito leggerissimo. Leggerissimo deve essere la nostra prima priorità. Comunque ora proprio nei prossimi mesi dovremo lanciare una nuova versione del sito che porterà insomma un po' di innovamento anche nel look di Punto Informatico, che ormai da qualche anno è quasi invariato, diciamo. Un'altra cosa che ho notato è che anche Punto Informatico ormai da tempo ha ben in evidenza il bottoncino arancione RSS, che permette di abbonarsi alle notizie di Punto Informatico e leggerle attraverso un aggregatore di feed, cosa che ormai sta prendendo piede anche nei mezzi più diffusi come Repubblica e ANSA, che hanno messo anche loro a disposizione dei lettori questo servizio. I lettori di Punto Informatico lo utilizzano? Sta crescendo l'uso dei feed? Che cosa sai dirci? Sì, sta crescendo sicuramente, anche perché, guarda, ogni giorno riceviamo diverse email dove appunto ci chiedono, perché magari non vedono il bottoncino, un po' rimane un po' nascosto, ci chiedono, ma perché anche Punto Informatico non adotta l'RSS? Ma guarda che veramente c'è di già, insomma. E, tanto è vero che insomma su questa spinta, proprio di recente, in queste settimane, abbiamo aggiornato il nostro RSS rendendolo compatibile con Firefox, no? Il nuovo browser della Mozilla Foundation. E che quindi con Firefox si potrà abbonarsi direttamente ai live feed, che praticamente si differiscono agli RSS normali perché finiscono direttamente nei bookmark, nei preferiti, e si aggiornano automaticamente ogni giorno all'aggiornarsi delle notizie. Sì, tra l'altro per gli ascoltatori che non lo sapessero, oltre a Firefox anche Thunderbird, che è il client email della Mozilla Foundation, permette di creare un account apposta per i feed RSS e di leggerli come se fossero messaggi di posta, per cui poi forwardarli, cancellarli, eccetera, molto molto comodo. Senti Alessandro, passando a qualche domanda personale, visto che ormai il tempo che ci siamo prefissati va verso il Stringe. termine. Sì, no, beh, stringe, possiamo anche tirare un po' in là, poi però non so quanto saranno contenti gli ascoltatori perché le dimensioni dei file da scaricare sono sempre piuttosto grosse. Passando a qualche domanda personale, se non ti scoccia, se mai dillo, se ci racconti un po' dove stai, quanti anni hai, un pochino del tuo percorso, poi dopo ti chiediamo anche qualcosa sui tuoi gusti vari, musicali e non. Certo, non c'è problema. Dunque, io quanti anni ho? Aspetta che non me lo ricordo, ecco, ho 30 anni, quindi sono del 74, nato e vissuto alla Spezia, dove anche passo la maggior parte del mio tempo, quindi anche tempo di lavorativo. Come sono finito in Punto Informatico? Forse questa è anche una storia un po' abbastanza divertente e curiosa. Dunque, ai tempi dell'università, quindi parlo dei primi anni 90, avevo fondato una piccola mail list, che nel giro di un annetto poi insomma era anche abbastanza decollata, un migliaio di lettori, che per l'epoca non era male, poi considerando insomma che era una cosa prettamente universitaria. E un giorno ho visto spuntare questo Punto Informatico e ho scritto ai miei collaboratori dicendo: ragazzi, abbiamo concorrenza, diamoci sotto. Non so come, non so perché questa mail è finita sul tavolo di Andrea De Andreis, che è poi stato insieme a Paolo, suo fratello, il fondatore appunto di Punto Informatico. E lui mi scrive dicendomi: ma perché non, invece di farci la guerra, non cerchiamo di unire le forze, di collaborare in qualche modo? Poi purtroppo per altri 8-9 mesi non ci siamo più sentiti. Ci siamo sentiti, diciamo, verso l'inizio del 97, del 1997, e finalmente sono partite le prime collaborazioni, che inizialmente consistevano soltanto nel pubblicare alcuni articoli di Mondobit, così si chiamava la mia mail list, in Punto Informatico. Poi alla fine ci siamo fusi completamente, quindi Mondobit è sparito, e io insomma sono diventato loro socio e uno dei condirettori editoriali. Beh, complimenti, bell'esempio di cooptazione, mica male. E, ci racconti qualcosa sui tuoi gusti, se hai qualche libro che ti è piaciuto particolarmente o che stai leggendo, qualche disco, eccetera. Ma di musica sinceramente non mi intendo granché, ascolto, mi vergogno a dirlo, quasi esclusivamente musica commerciale, quindi evito di consigliare qualcosa a riguardo. Di libri, tenendomi sul tecnologico, amo moltissimo Crichton, di cui mi è piaciuto moltissimo sia Timeline, anche se il film era una schifezza, ma invece il libro, lo assicuro per chi non l'ha letto, è veramente bello. E poi ultimamente anche Preda, che parla delle nanoparticelle, quindi di tutti i rischi che sono legati alle nanotecnologie, eccetera. Poi, grazie a un palmarino che mi sono comprato da poco, scarico anche moltissimi ebook, anche gratuiti. E quindi alla sera, prima di addormentarmi, diciamo, mi accendo il mio palmarino, spengo l'abat-jour e mi leggo i miei ebook. Per esempio, ultimamente mi sono riletto tutto il ciclo della fondazione di Isaac Asimov, e purtroppo non ho fatto a tempo a rileggere Io Robot prima che dessero il film. Io faccio esattamente come te, ormai da qualche anno ho varie incarnazioni di palmari o cellulari su cui leggo. E io non so tu, io li leggo in inglese, vabbè, è una passione che do da tanto tempo, è anche molto più facile reperire materiale. Poi, se vuoi online ci scambiamo un po', offline ci scambiamo un po' di dritte. Ma magari, sì, magari. Direi che ti ringraziamo, sei stato veramente gentilissimo a partecipare, è molto molto interessante la discussione. Ti passo gli altri e a risentirci. Ok, io ringrazio voi, ciao. Ciao Alessandro, grazie e a risentirci presto. Ciao, sicuramente, un salutone a tutti, grazie ancora. Ciao. Andiamo avanti noi ancora per un minutino, il microfono intanto era spento, per cui non si sentiva. E allora, Alessandro, lo becchiamo via IM. Andiamo avanti ancora noi un minutino e parliamo magari un po' con Luca dell'evento che c'è stasera, che è il motivo per cui lui è qua, fisicamente a partecipare a questo podcast, invece che virtualmente come al solito. Luca, che è molto più preciso e bravo di me su queste cose, ci racconta dove andiamo stasera, cosa facciamo e cosa sentirete nei podcast della prossima settimana. Questa sera organizzata da Gianluca Neri, il blogger famoso come autore di macchianera.net, c'è la Blogfest 2004, la seconda edizione di questa festa aperta su invito ai blogger, per cui non vi dico neanche dov'è perché gli inviti sono già andati tutti esauriti. Dillo, che almeno viene più gente con un po' di casino, sennò è la solita cosa all'italiana, invito chiuso, triste. Beh, non lo posso dire dov'è perché non mi ricordo comunque. E tra l'altro mi sembra che si possa bere a sbaffo, per cui più venite, più ci divertiamo. Io non mi ricordo dov'è, vagamente so che dietro Viale Montenero, vicino via Pierlombardo, dove c'è il teatro Pierlombardo, per cui presentatevi i tre ascoltatori che di sabato pomeriggio scaricheranno questo podcast. Sono, di solito sono molti di più dopo, ma all'istante saranno pochi se si presentano, magari entrano anche con noi. Noi andremo lì verso le 9 e ripasso la palla a Luca che è rosso porpora. Su macchianera.net potete anche vedere quali sono i blogger che parteciperanno, quindi quello che faremo adesso sarà dare un'occhiata in modo da essere preparati nel momento in cui i blogger diventeranno in carne ed ossa e provvederemo anche a intervistarne qualcuno da mandare come pillola nei prossimi contributi del podcast. Abbiamo raggiunto 43 minuti di registrazione, non so a quanti megabyte corrispondano. Se siete arrivati ad ascoltarci fino adesso, vi ringraziamo e ci sentiamo al prossimo podcast. Salutiamo tutti, magari più che qualche pillola, visto che ci stiamo attrezzando per intervistare buona parte dei blogger presenti stasera. E io vi saluto e gli altri anche fanno dei cenni che non potete vedere. Al prossimo podcast.